qui finisce la lezione. È solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. È solo chiacchiere Block Clock, siamo in onda Radio Default. Ciao a tutte e tutte, grazie per l'invito. 2, 3, eccoci, ci siamo pure noi di qua. Grazie a voi di essere venuti qua. Un po' la storia è proprio quella, alzare tutti i microfoni perché oggi siamo pieni di conduttori di musica, di roba musicale, ma non solo, anzi non solo. E niente, quindi siamo qui negli studi di Radio Onda Rossa, professore, come ospiti. Forse è la prima volta che sì. Siamo... No, negli studi di Radio Onda Rossa come ospiti. Vabbè, quello sempre. Ci sono venuto proprio in veste di ospite, che è molto, sì, dall'altra parte del tavolo. Però, diciamo, questa roba qui, per cui non si sa bene chi ospita chi, è molto più interessante, insomma, anche perché... va un po' a limare, a trasformare, a fare un passo avanti proprio al concetto di ospitalità, in un mondo appunto in cui poi sembra che ogni volta che qualcuno viaggia debba essere ospitato da qualcun altro. Pensiamo insomma che invece magari questo mondo, questa radio, che questo mondo che poi sta di fuori, debba essere semplicemente un luogo dove la gente abita in qualche misura. Ma anche perché prima a microfoni spenti stavamo appunto chiacchierando sulla tematica del caos, sul fotografare il caos che è la realtà. Questo magari ci viene bene, fotografare il caos. Già partendo dalla telefonata di prima. Vai, vi vogliamo sentire anche a voi. Sì, non noi, ci fate condurre. No, assolutamente. Noi stasera facciamo un po' una panoramica anche di questa stagione di Radio Default, che abbiamo anche a tratti attraversato insieme, quindi ci faceva piacere anche ricordarla. E abbiamo subito un altro dei nostri ospiti, che è un redattore di Radio Default, che conduce uno speaker, che conduce una trasmissione in radio, che ha anche un gruppo che ha inciso due pezzi che stasera volevamo ascoltare qui insieme. Spegnevamo subito nella subito, migliore subito. Delle tradizioni, certo. Sì. E anche perché lui è un veterano di Radio Default, tiene una trasmissione che è Voli Pindarici, Pindaro Was Rocker. E infatti vieni a parlarci un po' a te di anche un po' della trasmissione. Ciao a tutti, sono Marco, mi ha appena introdotto Roberta, ovviamente faccio parte anch'io, come ha appena detto Roberta, del collettivo di Radio Default. Conduco una trasmissione che si chiama Voli Pindarici, come ha appena detto Roberta, Pindaro Was a Rocker. Una trasmissione che, come suggerisce il titolo, diciamo, propone dei salti di palo in frasca nella storia della migliore musica rock, in associazione libera, anzi liberissima. E per chi fosse curioso, comunque le puntate sono disponibili sul nostro sito www.radiodefault.it. Oltre a condurre questa trasmissione radiofonica, sono anche membro di una band che si chiama Tecnica, scritto rigorosamente con la K, lo preciso, band dei Castelli Romani, per l'esattezza di Genzano. Naturalmente abbiamo anche suonato Radio Default. La band, volevo farvi una piccola presentazione prima di mandare in onda i pezzi. La band consta di tre elementi: io naturalmente alla chitarra elettrica, poi Stefano Rossi voce e chitarra, Alessandro Giovannangeli tastiere, sinte e occasionalmente cori. ci siamo formati ad aprile dello scorso anno e dopo varie vicissitudini, vari cambi di organico, ci siamo assestati su una formazione a tre. Il progetto è, come posso dire, in piena fase di maturazione da tutti i punti di vista, soprattutto stilistico. Il sound è piuttosto in fieri, in costante evoluzione. La matrice è sicuramente progressive, ma il progressive classico, quello molto 70s, con venature però anche psichedeliche, con inflessioni pop, ed è un sound che posso anche dire che non disdegna qualche sprazzo indie noise, di cui sono io il principale responsabile. Quelli che vi propongo questa sera sono i nostri due cavalli di battaglia, registrati freschi freschi proprio ieri. È stata una registrazione piuttosto veloce, un live in studio appositamente per 25 o'clock. Wow. abbiamo fatto tutti in extremis, ma ce l'abbiamo fatta, e colgo l'occasione per ringraziare Marco e Francesco, i fonici che ci hanno assistito nel lavoro di registrazione. Marco e Francesco hanno uno studio di registrazione a Genzano, al Rockness, tanti voi lo conoscono, è un celeberrimo locale genzanese. E i pezzi che vi propongo, dicevo, sono i nostri cavalli di battaglia, che sono in sequenza Così sono e Fabbrica. Il primo è quello di cui sono personalmente più orgoglioso e credo che sia il migliore esempio della qualità psichedelica che ha la musica che abbiamo prodotto fino adesso. Mentre l'altro pezzo si chiama Fabbrica, il titolo è tutto un programma, ed è un pezzo che cambia decisamente registro rispetto al primo, perché svela un'altra delle nostre peculiarità, cioè un certo umorismo dissacrante. Colgo l'occasione anche per fare un piccolo annuncio, se mi ha consentito. Siamo assolutamente alla ricerca di un batterista, perciò se sì, qualcuno infatti, ma guarda, qualche formulato batterista noi potremmo pure conoscere, se qualcuno fosse telefona si vabbè, propone subito, e poi vuole essere pagato, quindi sì, lui va a essere pagato per tutto. Vabbè, comunque no, cioè era sì, una a un certo punto hai colto gli elementi, insomma mancava una parte ritmica, ecco. Assolutamente, per il momento le basi percussive sono preregistrate, però insomma chiunque fosse interessato si faccia avanti, lo accogliamo. Dai, lo troveremo. Lo accogliamo a braccia aperte, e tanto per riallacciarci ai discorsi di prima, il canale ovviamente è la nostra pagina Facebook, che si chiama con molta fantasia Tecnica, per l'appunto. Contiamo di esibirci presto dal vivo a Roma e nei dintorni, perciò seguiteci e vi lascio in compagnia della nostra musica. I pezzi sono Così sono e Fabbrica. A voi Tecnica. Sono nella zona industriale, cancello, aspetta solo me, la guardia neanche mi guarda come un alieno diverso da chi mi giudica perché non so stare zitto e faccio come mi pare. Sono libero e senza pensieri, preparo la mente per questa routine. Entro nella fila, il cartellino mi rimprovera del ritardo che ho trovato per giungere fin qua. In fretta all'armadietto metto il camice, le scarpe che proteggono il mio corpo e la pipì che non farò mai più. Adesso, dopo le registrazioni studio, passiamo alle registrazioni dei nostri live. Quella che seguirà sarà in diretta dalle strade, una giornata di musica e letture contro la violenza fascista. Siamo il Mini Marte e siamo antifascisti. Thank you. stare a bazooka, mi carmani a tagliare un gatto, dai camale, ma con il cielo, a bazooka, mi carmani a tagliare un gatto, dai camale. We'll be right back. Il pezzo si chiama Il posto dove i sogni muoiono. Molti di noi vengono dalla provincia, che è un posto abbandonato da tutto e da tutti, dove però se permettiamo di non far passare i fascisti quando vengono a romper cazzo. Il posto dove i sogni muoiono, dedicato a tutti gli antifascisti dei castelli e di provincia. Questo è il posto dove i sogni muoiono. Un altro pugno nello stomaco per ricordarmi che non sto dormendo, ma sono vivo e questa è la mia vita. E non ho lacrime né giustificazioni per chi vuole prenderla. La mia generazione grida vendetta, paga il prezzo di chi ha banchettato col futuro dei suoi figli, ali mozzate prima di volare, d'un domani che non ha nemmeno l'ombra d'aria nei polmoni. Precari e disoccupati, illusi e traditi, questa Italia l'hai da chiusa nei palazzi del potere. Viva il presente se non ha un futuro, avessi più coraggio avrete il piombo a dare forza alla ragione. Nel posto dove i sogni muoiono, ci nasco, ci vivo, ci muoio ancora prima di morire. La mia vita è già finita, i rali scrivo a forza su una base di chitarre d'odio a massimo volume. Benvenuti nel posto dove i sogni muoiono. Alza addosso la mattina mentre va al lavoro, i sogni infranti sugli specchi in cerca di un futuro. Trasforma in gatti rabbia, la rabbia è rotta, mastico polvere, sta fra le stelle e l'asfalto. Ti hanno tolto il cilindro senza darti nulla in cambio, entra un fuoco di parole con un anima in bianco. Tanto il consiglio che ti dà è sempre quello di arrangiarti, ed ogni volta tocca rialzarti. In questo posto i sogni muoiono, sarà il momento di svegliarsi. Benvenuti nel posto dove i sogni muoiono. Faccio per me, faccio per voi, faccio per tutti. Dovrei ringraziarvi per aver sforzato il mio futuro, ed ogni lacrima versata, ed ogni goccia di sudore, ha una rima partorita con dolore, e puro ancora amore. Chi rifiuta tutti i giorni di vedere rose e fiori, dove il marcio è ricoperto da un allone di finzione, dove la verde è profumata e tutto brilla tanto da accecare anche il cervello più allenato. Grazie. E questo era un estratto dal concerto in diretta dalle strade. Abbiamo ascoltato Mini Mart e La Furia, ma ricordiamo che c'erano anche The Running Way, Red Max, i Motherline, i Mini Mart e La Furia, i Godzilla e le tre bambine coi baffi, e poi in chiusura 25 O'Clock che ci ha regalato un bel momento fine live. Sì, sì. No, ma ne stavamo parlando a microfoni spenti, insomma, riuscite comunque a registrare la musica dal vivo, che non è una cosa scontatissima, vero professore? No, ci abbiamo provato qua a 25 O'Clock con risultati rovinando la carriera, sì, di alcuni musicisti. No, hanno cambiato proprio già, cioè hanno messo la batteria, c'era una cassetta, insomma, vabbè. lasciamo perdere, come caliamo il fantomatico vero pietoso. Sì, abbiamo rovinato pure la loro bella serata al 25 Block. Facciamo di tutto. Perché dobbiamo dire che, cioè, non è il successo nostro di quella sera, è stato che abbiamo fatto chiudere il la posto, serata, quindi... chiudiamo di solito, mandiamo via gente, è questo quello che... No, in realtà noi avremmo ascoltato per ore e ore, ma non era possibile. No, però non era possibile per la scaletta che abbiamo portato. E il fatto è che, appunto, anche per contestualizzare un po', era un concerto un po' particolare perché veniva a seguito di un'aggressione fascista ai danni di un redattore di Radio Default che usciva una sera dalla radio, e questo a sua volta a seguito da comunque una giornata in cui ad Albano Laziale si è impedito che si celebrassero i funerali di Erik Priebke, che è boia delle Fosse Ardeatine, dove si voleva comunque ricostruire un po' un luogo di pellegrinaggio per vecchi e nuovi fascisti. Quindi, insomma, c'è stata questa aggressione, la radio ha risposto come pensava di fare con la musica, quindi con un concerto. È stato scelto un luogo abbastanza centrale, accessibile un po' alle persone, quindi che era il Palazzetto dello Sport di Genzano. Molto partecipato, peraltro. Molto partecipato. La gente ce n'era tanta, e tutte le generazioni. Di tutte, sì, le generazioni. Ci sono stati anche diversi contributi, anche ci sono stati comunque dei banchetti. Diverse realtà hanno proprio partecipato e anche organizzato quella giornata lì. E questo per dire, pure per ritornare un attimo alle registrazioni, l'audio è molto... è molto più buono quello della registrazione che quello all'interno del palazzetto, perché insomma il posto era gigante, quindi quindi questi suoni rimbombavano un po'. No, invece è venuto molto bene. E quindi, al di là di questa specifica giornata, per la vostra partecipazione, un po' per risalire anche alla nostra conoscenza, amicizia, così, noi ci siamo incontrati durante due iniziative incrociate al Forte Prenestino, perché c'è un progetto della radio che è Vinilica, è una settimana di musica dedicata alla musica in vinile, e quindi ogni giorno è dedicato a un diverso genere musicale. E quel giorno là noi affrontavamo il genere punk rock, ci trovavamo al Forte e quindi ci siamo incrociati, e poi ci siamo anche rincontrati in quello stesso spazio quando c'è stato Non un sasso indietro tour, appunto al Forte Prenestino, dove Radio Default ha registrato tutti i concerti di quella sera da lì. Oh, per quanto riguarda Vinilica, c'è comunque tutti gli anni? Sì. Che vivete tra i promotori, insomma, comunque. Sì, lo scorso anno è stato un po' un esperimento iniziale perché la radio ancora non era on air, infatti si è tenuta nei locali, nello spazio di Radio Default, e mentre quest'anno siamo riusciti a portarla in giro e quindi a trasmetterla on air da diversi luoghi romani come il Forte Prenestino, lo ZK, Comunia, dove appunto si sono susseguiti diversi generi musicali, per concludere una giornata a Radio Default dove c'è stato un po' un mix, dove ognuno pure portava un po' i propri vinili e li suonava, insomma si ascoltavano. E per il 2014 pure avete pensato di riproporre Vinilica, comunque verso quale periodo dell'anno più o meno? Allora, più o meno il periodo dell'anno è quello dicembre-gennaio. Quindi lo scorso anno è stato dicembre, quest'anno è stato a gennaio, dicembre uguale, perfetto. Quindi dicembre è il periodo quello, e sì, noi pensiamo che è un progetto che la radio porterà avanti, proprio in quanto c'è, oltre a tutto il discorso sull'autoproduzione musicale, anche sulla musica in vinile, e quindi dei momenti dedicati proprio all'ascolto della musica in vinile. Ci vogliamo ascoltare un po' qualche un estratto da Non un sasso indietro tour? Ma molto volentieri. Ci ascoltiamo allora i Placcaggio HC, che tra l'altro sono anche bene ben accetti e ospiti, sì, anche da queste parti. Oh ragazzi, siete tantissimi. Eccoli, grazie qua per essere venuti qui stasera, un'occasione molto importante. Questo pezzo è dedicato a voi che avete mosso il culo, cazzo, siamo tutti qua stasera, il prossimo pezzo si chiama Germe! vincerai, combatterai, aggredirai con noi. Stop! Soffrirai, agonizzerai con i tuoi guai, ma te osteggerai, combatterai, aggredirai con noi. Con noi, con noi, con noi. Allora ragazzi, il prossimo è il nostro pezzo naturalistico, quindi come non dedicarlo questa sera alla battaglia No Tav, ai ragazzi che stanno in carcere. Ricordiamoci sempre, la Tav non è altro che un progetto inserito nel più ampio corridoio 5 che permetterà poi alla fine di congiungere ad alta velocità Lisbona a Kiev. E diciamo che con l'ultima crisi in Ucraina, di pensarci un attimo a questa cosa, oltre che alla nostra problematica regionalistica, diciamo così. Quindi il prossimo pezzo è per i ragazzi e si chiama Kernunnos. Questi erano i Placcaggio HC, non un sasso indietro tour, alla tappa del Forte Prenestino, e ricordiamo che c'è anche comunque un disco, un vinile, un CD che sono appunto il frutto proprio di queste tappe che sono state portate in giro. È nata insomma una compilation con delle tracce dedicate ai quattro arrestati per i fatti in Valsusa. Da questa idea era insomma nata l'idea della compilation, non un sasso indietro. Lo stavamo ricordando prima, ricordiamo che Beppe di Distruzione è stato arrestato a sua volta. Nell'ambito delle ultime i primi di giugno a Torino, sì. Il movimento di lotta per la casa di quella città, e quindi è stato vittima di questa ondata repressiva, e quindi portiamo tutta la nostra solidarietà insomma. Ma riguardo non solo la compilation, ma anche un po' quella che è la nostra idea di registrare i concerti e quindi supportare anche tutte le iniziative indipendenti e l'autoproduzione musicale, anche quella di avere un archivio musicale che poi insomma potrà restare nel tempo, e insomma Radio Default principalmente trasmette musica da questo archivio musicale che stiamo costruendo e che insomma è ancora aperto, e continuiamo a registrare diverse iniziative, a supportarle oltre a quelle che organizziamo. Come prima dicevamo, il concerto in diretta dalle strade, dal quale è nata poi un'altra idea successivamente, che era quella di un contest che poi si è svolto in due tappe romane, una al Comune e una allo spazio Cagnasciolte, e questo appunto era un po' un proseguo di quel discorso lì, di portare la musica in strada in questo modo, di registrare, di andare ad incrementare questo archivio musicale, e quindi insomma adesso ci possiamo ascoltare anche un altro pezzettino di questo contesto. Ha un po' funzionato come olive, insomma, che comincia a assaggiarne una e poi te mangi tutto il piattino. No, ma che poi cioè, Radio Default va. Cioè va comunque, poi si trova anche a registrare in condizioni estreme, come è stato nel Forte Prenestino, che si sono attrezzati su un trespolo quasi in mezzo al poco, quindi complimenti, era molto punk. È vero, dai. Quindi adesso che ci abbiamo, spaziamo un po' anche col genere musicale. Questa è Fedra, è una rapper romana che canta, scrive dei pezzi e li canta su delle basi autoprodotte, che quindi vengono incise proprio per le sue canzoni. Dai. Oh, oh. Ok. E questa è HC. Un po' più di beat. Apprendo ciò che sento, prima spinto, poi l'incendio. Mi godo ogni momento, prendo il tempo, ci palleggio. Lancio una barra al centro, adesso para il mio concetto. Che c'è un progetto spesso, come il muro che tu hai messo. Non giudicare, non parlare senza nessi. Che poi da solo tu ci arrivi. Eccoci, no, e vabbè, questo è hip hop, quindi noi abbiamo uno dei nostri ascoltatori prediletti che magari avrà occasione di apprezzare e non so, anche di indagare o addirittura invitare. Ma chissà, questa nostra proposta sempre sei all'ascolto, però ma no, chissà, è troppo tardi, forse è troppo tardi. È troppo tardi. No, Hard Banana, dai. Oh, oh. Ok. E questa è HC. Un po' più di beat. Apprendo ciò che sento, prima spinto, poi l'incendio. Mi godo ogni momento, prendo il tempo, ci palleggio. Lancio una barra al centro, adesso para il mio concetto. Che c'è un progetto spesso, come il muro che tu hai messo. Non giudicare, non parlare senza nessi. Che poi da solo, tu sei il primo che me batte pezzi. Non ho capito che vorresti, che ti aspetti, man. Che io me apro, perché mo me dete pezzi. Se aspetta, spera, aspetta proprio un'altra era. Non ho tempo per la gente poco seria. Ehi, questa è Fedra, mica una qualsiasi scema. Se volevi una leggera, cerca altro nella scena, ah, ah. Porta rispetto sotto il palco, dentro al letto. Battito del petto, che se sgravi mi difendo, mi ribello. E devo farlo quando non l'ho fatto. Spalla al muro, ho fatto finta di morire per poi mettertela al culo. E io che non volevo fare guerra a nessuno. Se conti i miei nemici arriva a 101. Se conti i miei fratelli sono tre, ma giuro, più validi di te che ciucci cazzi e poi fai il mulo. Se sono onirica mi dici parlo strano. Se parlo terra terra poi comunque ti fa strano. In ogni caso studia il mio vocabolario. L'aria andata sul diario, ogni pensiero visionario, pH ricettario, le mani su, oh, oh, oh, ok, avanti. C'è stata riga, oh, oh, avanti col beat. Ok, ok, Sick 51 sul beat. Queste sono tutte strumentali prodotte, non ne so andate a prendere su YouTube, raga, ci sono musicisti dietro. E manco ci sto su YouTube. Divento fuoco quando vedo il palco, perché so già che sarò buona a farlo. Mi piazzo qua con tutto il cuore spacco. Alza l'impianto, il suono arriva in ogni affratto. Flash per chi è fatto, per chi è lucida un impatto duro. che c'è rimani, te l'amico tuo è sicuro. Non mi invidiare che mi porti sfiga gufo. Se vuoi ti presto un po' di flow, non giuro e oh. Sto in forma perché mi agito su beat che spaccano. Vivo per questo, non per uomini che scappano. Capisci, a me non è che sto di ghiaccio, è che non voglio fiori, tantomeno da un pagliaccio. Portami fuori tutto al club e ti ringrazio. O dammi suoni che te sposo il 1° maggio. Da scherzo non mi vendo, non ne avrei il coraggio. Da fede avrei soltanto un bacio o forse un abbraccio. Ah, ok? E quando dico cagne, voi rispondete sciolte. Cagne, cagne, cagne, cagne. Belle de casa. 651 sul beat. Oh, oh, oh. Divento schizza quando sento il tempo, perché so già che correrò su questo. E se la secco io mi scordo il resto. Chiusa tutto l'inverno, 1000 fogli di quaderno. Spento lo schermo, qualche amica dice acclama che è lo scherzo. Ripigliati, no grazie io sto bene, non ho apprezzato i tuoi amici ridicoli. Lo vedi, c'ho i miei simili, basta uno sguardo. No discorsi frivoli, ah. Ma arrabbio quando vedo che mi levi spazio. Tipo un oltraggio perché spacco, quindi levati dal cazzo che ti batto pure quando fa lo straccio. Il cuore è marcio, mi rimane solo il coraggio. Ecco perché ti canto la forza che ci metto quando il rap e ti strappo l'applauso come fosse al brancaccio. E sei un poraccio se pensi che m'accanno, invece mi espando. Bella riga. E questa era Fedra. E in questa tappa del contest in diretta dalle strade, dove aveva cantato anche Marta, e poi c'è stato un DJ set musicale. Nel frattempo, no, sì, ha chiamato il nostro esperto di pop, il conduttore della doppia H su Radio Onda Rossa. E vabbè, perde un po' i colpi, insomma, cerca di correggere, di dare informazioni, di, sì. Però poi vabbè, non vogliamo svelare in diretta le doppie clamorose, però certo, vabbè, può capitare. Non fa niente, banana, non fa niente. E questo era un live registrato nel marzo 2014, quindi adesso invece passiamo un po' più, andiamo un po' più avanti, arriviamo al 25 aprile, quando c'è stato il compleanno di Gypsy Rufina. Lo ZK ha organizzato una giornata che è stato l'Outlaw Folk Fest, che poi non è una giornata proprio abbastanza già particolare di sé il 25 aprile, quindi una festa dentro una festa. Certo, e c'è stato insomma questo festival folk, artisti internazionali. E noi abbiamo estratto un paio di pezzi da due artisti che sono Max Forestieri e Tim Holeos, e ce li ascoltiamo. I'm a whole wrecker and I'm walking in a lonesome road. And I'm walking in a lonesome road. I got an eye alive, tiger is on my blow. I don't meet that door when I'm walking in a lonesome road. When I'm walking in a lonesome road, I got an eye alive, tiger is on my blow. And I say meow, meow. Let me water your garden with a little erotic song. Oh, baby, don't worry about a holding mess. Baby, don't worry about a yellow grass. Let me water your garden. Let me water your garden. Let me water your garden. Your grass will be green. Well, if you want your rose grow up, let me be your garden and never stop. Let me water your garden. Let me water your garden. Let me water your garden. Your grass will be green. Well, you don't need until 4 hours. You feel good and left before. Let me water your garden. Let me water your

rainbow. And my foot just rides on my major flag. Nobody wants to call me their own, cause this doggy, I swear this doggy ain't got no home. Yeah, dog got no home. Yeah, dog got no home to call his own. Yeah, dog got no home. Yeah, dog got no home to call his own. Yeah, this doggy ain't got no home. Woo, woo, woo, woo. Grazie, cheers. Salute! Cheers, you all. This is for all the really drunk people in the house. Greg Doe is the most drunk man here. This has been an amazing day of just meeting all these incredible musicians, some of which I've heard of before, some of which I haven't, and just been kind of blown away by how awesome. Thank you, Gypsy, for sorting this out. This has been an incredible day. I've been smiling all day. I've been like, yeah, that was pretty cool. That's where you do it. This song is called Firewater. This is for all the fucking drunk people, including me. Oh, that firewater gonna bring me down. Oh, that firewater gonna bring me down. Oh, that firewater gonna bring me down. Been drinking too much to make some, and my body don't feel so good. Been drinking too much to make some, known in every bar in Italia. Oh, yeah, gonna that firewater gonna bring me down. Oh, that firewater gonna bring me down. Oh, that firewater gonna bring me down. Well, my baby gone and left me. Said she couldn't take much more. Yeah, my baby gone and left me. Now I'm drinking myself to the floor, gonna the firewater gonna bring me down. Oh, that firewater gonna bring me down. Oh, that firewater gonna bring me down, ladies and gentlemen. Grazie, grazie. E questo era l'Outlaw Folk Fest organizzato allo ZK Squat per il compleanno di Gypsy Rufina, e che tra l'altro era un pre-Ostia Palusa. Ah, preludeva qualcosa. Preludeva qualcosa. Ostia Palusa Do It Yourself Festival. Il secondo, perché c'è stata una prima edizione lo scorso anno, nel giugno del 2013, e quest'anno, due settimane fa esattamente, la seconda edizione. È un festival autogestito delle autoproduzioni musicali, che appunto supporta la musica autoprodotta, dove si svolge allo ZK. Ci sono due palchi, un palco interno e uno esterno. I concerti si alternano anche con delle performance, quindi c'è in gioco anche la danza, il movimento, la performance accostata comunque al momento musicale, nonché al momento culinario. E possiamo partire con dei live dello scorso anno, così ci facciamo un assaggio. Bene, bene. Ci sono gli Asino, c'è cioè Gypsy Rufina, gli Scum from the Sun e qualcosa dei Nocciapi Bourgeois. Gypsy Rufina on Radio Default. I can keep away the doom I'm falling in. Out the window, darkest night, I can't breathe, there's no fight. I can't stay, I can't play, I gotta get me out. Outside cold, punch your face, hanging out in no safe place. But this ain't my fear, Mama, I hope you'll never see me here. Down, I'm not a rambler, I belong to another gander. And I'm sinking in the dark until the light. Mom, I'll tell you that I'm fine, but tonight I might gonna die. Since the shark took my dreams, there's no peace between my sleep. Questi sono gli Scum from the Sun. Nasce un buon servo, ti convinco di essere nobile, si sopravvive sino a quando si spreca, tutti a bordo della stessa nave, con un telecomando tra le mani, confondiamo per vita il vero essere al mondo, dove io sono ciò che consumo. Mentre da sopra ti guardano e ti lasciano girare in tondo, insieme a tutti i tuoi simili, girano in cerchi e nuotano a vuoto. Il tuo nome non significa niente, sei diventato una mera statistica, controllata, pianificata, obliterata. Morte dell'essere, gioia del nulla, vacuità di una vita schedata, nato per essere fuoco, svuotato delle tue idee, morte dell'essere, gioia del nulla, vacuità di una vita schedata, nato per essere fuoco, svuotato delle tue idee. E questi sono gli Asino, sempre a Ostia Palusa Do It Yourself 2013. E adesso un pezzo dei Nano War of Steel, sempre da Ostia Palusa 2013, Do It Yourself. Buonasera a tutti. Chi sono loro? Bene, noi siamo i Nano War of Steel. Introdurremo questo concerto parlandovi di un mezzo, il mezzo con cui ci siamo recati qui. Forse una macchina? No. Forse, come dire, una bicicletta? No. Una motocarrozzetta? No. Un autocaravan? No. per rispettare l'ambiente, noi siamo venuti qui con dei veri tricicli d'acciaio. Nano War of Steel, ora sul palco di ZK, Ostia Palusa, Luigi Azzera. It's made up of steel, but it's not a motorcycle. It's made up of wings, but it's not a motorcycle. It's made up of kings, but it's not a motorcycle. It's made up to metal, it's a fucking true psycho. E quindi questi erano un po' di estratti dalla prima edizione di Ostia Palusa, che ne pensate? No, pieno sostegno ai Nano War of Steel. No, esattamente, ma poi proprio sull'evolvere della scaletta di questa sera direi pure che piano piano siamo entrati da un ingresso appunto di Radio Default, che appunto poi sta entrando sempre più in simbiosi con quelle che sono anche le sonorità che vanno da queste parti, e quindi mi sembra che stiano facendo ci stiamo facendo uno splendido servizio fra gli uni e gli altri. No, no, è la sensazione di avere la scaletta 25 o'clock. Sì, però fatta la radio di folta. Cioè, non ce lo bene, bene. E, solo per ricordare un po' anche gli altri artisti che suonavano, perché questi sono sempre estratti dai live che abbiamo registrato. Oltre agli Asino c'erano gli Asteroidi Esadecafonici, Better Ever Plan B, poi c'era Gypsy Rufina, i Grunge, gli Injury Broadcast, i Mondo Topless, i Nano War of Steel, gli Scrub 71, Scum from the Sun, Sleeping Hound, Tosse Grassa, poi c'era Ivan the Toy George e i Nocciappi Bourgeois. Le uniche due registrazioni che purtroppo abbiamo perso, proprio perché comunque ogni tanto gli intoppi ci sono, e poi comunque insomma lo sappiamo bene da queste parti, non è, cioè non riconosciamo gli intoppi. Sì, sì, qualcuno ogni tanto. Sì. Comunque c'è un'iniziativa che ha visto generi diversissimi suonare magari nello stesso giorno. Sì, poi comunque l'idea è pure quella, insomma. Adesso infatti sentiamo anche dei contributi audio delle interviste sempre che abbiamo registrato, che magari ci fanno entrare un po' più pure nel vivo della situazione, insomma, perché comunque un festival di musica autoprodotta, autogestito, è un momento anche in cui proprio si incrociano, no? Sia gli artisti e i gruppi che vanno a suonare, che proprio si vivono il festival con le persone che lo organizzano, o che magari insomma partecipano negli altri modi per far sì che quelle tre giornate poi siano un momento in cui si incroci anche un po' l'aspetto quello gioioso e anche no, dell'ironia con il momento poi artistico musicale che comunque è fondante del festival. E sentiamoci un attimo i contributi audio, poi ne riparliamo. Sì, dai, Iena. Dai. Ciao a tutti, per me è un onore suonare all'Ostia Palusa. No, sono contentissimo. ZK è il mio squat preferito in tutto il mondo. Penso che la musica, diciamo, registrata e impacchettata non abbia tanto senso. Non so, sono abbastanza contrario a tutto quello che è legato alla SIA e penso che la musica si debba condividere, mixare, cambiare, ovviamente sempre citando magari la fonte, però l'importante è che le idee girino e insomma che... Ecco, questo. Perfetto. Nothing seems like e quindi insomma siamo molto contenti di essere qui in questo spazio di ZK. Beh, poi queer nel senso che è uno spettacolo che parla di amore tra donne, parla di sessualità e quindi è uno spettacolo che ovviamente propone un discorso diverso dal discorso normativo, eterosessuale, sessista, omofobo e quindi è anche il nostro modo di reagire a tante cose che non ci piacciono, quindi e tutto questo senza parole. E ho parlato così tanto, appunto, il nostro spettacolo. Ma il concetto, sì. Secondo da chi vuole Muto. Sapere e vuole conoscere il concetto. No, noi giochiamo con vecchie console portatili, stinky. Riciclandole, creando una musica con the esse, automaticamente trasformarle in sintetizzatori computer portatili. Noi praticamente non abbiamo creato nulla, abbiamo solo abbellito, abbiamo solamente levicato tutto ciò che quello che poteva portare quel comportamento pure politico, cioè un modo anche di fare le cose, no? Fare cose cercando di non prendersi troppo sul serio, o meglio, cercando di dare il giusto peso alle situazioni e alle cose che si fanno. Quindi se alla fine, per esempio, questo festival ha l'obiettivo di spingere l'autoproduzione, l'autogestione come modello di sviluppo, come comportamento funzionale a questo obiettivo, c'è anche magari chiamare dei gruppi cazzoni, si può dire cazzoni. Seconda serata di Ostia Palusa Do It Yourself Festival. Siamo su Radio Default con i No Chappi Bourgeois. E non so se voi conoscevate già Radio Default. Radio Default, come abbiamo ricordato altre volte, è una radio che è on air ed è ascoltata in tutto il mondo. E adesso abbiamo esattamente 5 milioni di ascoltatori e ascoltatrici. E allora la prima domanda che vi rivolgiamo è: come è stato suonare di fuori, all'esterno? Azione quindi dedicato a gruppi come gruppi musicali che hanno scelto di sostenere il festival senza in qualche modo essere liquidi, facendolo soprattutto per sostenerlo, appunto. E ieri ci sono stati tre gruppi, soprattutto di danza, diversi tipi di danza, contemporanea, danza di ricerca e pure una performer che faceva danza indiana tradizionale. E oggi pure ci saranno altri quattro gruppi, uno di teatro e altri tre di danza, e domani invece... In quel momento la performance, se no è difficilmente riconoscibile pure in altri... perché per esempio come si può riproporre quello che è successo ieri a livello globale, cioè la musica, non c'era il teatro, non c'era quello. E infatti il mondo dello spettacolo si spinge sempre più verso quelle forme di underground lì, invece molto importante autogestirsi, autoprodursi, appunto. Però bisogna purtroppo scontrarsi anche in questo caso con la realtà del mercato, comunque come gira anche la musica adesso, la fruizione stessa della musica è cambiata e quindi volente o non volente ti obbliga a scontrarti con certe realtà con cui tu vuoi essere niente a che fare, non so, mi mette internet stesso, da Facebook, da social network, è un'autogestione, ma in realtà è mediata da un concorrente. Nasce un buon servo, ti convinco di essere nobile, si sopravvive sino a quando si spreca, tutti a bordo della stessa nave, con un telecomando tra le mani. Confondiamo per vita il vero essere al mondo, dove io sono ciò che consumo. Sì, sullo spazio, sul fatto che il mainstream dà spazio soltanto a qualcosa di vendibile in massa, quindi sì, la nicchia non va. E secondo voi è distribuibile commercialmente la nicchia o è solo perché noi diamo spazio alle minoranze? Avrebbero più spazi, sì, lo ZK comunque molto, molto aperto e disponibile a questi tipi di sound, allargare diciamo il concetto di distribuzione, di promozione di questo genere di musica e di altri generi di musica. Le performance e mezzi convenzionali di spazio, quindi è venuto fuori una bomba fondamentalmente il festival, è stato bello. Noi dovevamo suonare, noi non dovevamo esserci tutti e due i giorni, venerdì e oggi, però c'è saltata la data che avevamo venerdì nelle Marche, quindi siamo venuti direttamente qui e ce la siamo fatta. Siamo sotto per organizzare le cose. E quindi pensando a sto festival famoso che da 30 anni si fa in America, che si chiama Lollapalooza. Il clima di pace e amore che è veramente fighissimo, quindi ci vengo ultra volentieri. Sono abbastanza contrario a tutto quello che è legato alla SIA e penso che la musica si debba condividere, mixare, cambiare, ovviamente sempre citando magari la fonte, però l'importante è che le idee girino e persone che gestiscono la cosa, si fa proprio da soli e improvvisando esprimono, fanno un intervento rispetto al tema che è liberare lo spazio, quindi che può essere sia contestualizzato in ZK, insomma con uno spazio occupato, ma anche può essere libero e astratto come idea. Beh, c'è una differenza veramente abissale comunque, perché qui comunque c'è una dimensione più collettiva che ognuno aiuta l'altro e sostiene l'altro, non è una cosa gerarchizzata e non c'entra praticamente niente il fattore commerciale, se no vabbè puramente la cosa dell'autofinanziamento che è quello che per forza di cose serve nel mondo in cui ci troviamo a vivere, però appunto non c'è questa logica appunto del profitto, del far suonare il gruppo perché comunque fa venire più gente, tipo quello che ha portato le cover band ad esempio nei locali più chic. Cioè, ti aspettavi di trovare questo vento ad Ostia Palusa o no? Allora noi siamo un gruppo punk rock, diciamo siamo da Ostia e ci accompagnate da una musica, quindi sicuramente si sposano bene. Avere un festival dove c'è un'autoproduzione musicale, avere un festival in cui si presentano delle performance che sono costruite di solito autonomamente dalle persone che poi la mettono in scena, sicuramente ha un senso. Sarebbe bello poi se da questa cosa nascesse magari una collaborazione tra chi autoproduce la musica e poi chi fa performance, perché lo spettacolo alla fine è fatto di tante cose e quindi si possono sempre unire e mescolare. E questi erano gli estratti che abbiamo montato con i live musicali della prima edizione di Ostia Palusa. Molto belli, direi una registrazione molto bella e che riusciva a trasmettere però la sensazione, sì, di live, dell'ambiente del live, ma anche dei ragionamenti, no, che potevano circolare comunque in queste situazioni appunto che si creano. Sì, noi eravamo in terrazza con la radio, avevamo un salottino di Radio Default dove abbiamo fatto interviste anche ad orari improbabili come le 5 di mattina con gli Asino. Però insomma le migliori è vero. Sì, e adesso invece ci sentiamo qualcosa dall'Ostia Palusa di quest'anno. Ah. Quindi veniamo a qualche settimana fa. Bene, settimana fa. Un paio di settimane fa, sì. E abbiamo gli OS, i Misanthropus e i Motherline. Wow. nasty flow that I'm growing up to show to the world I was well. Then I bust that body bow. None of us knows that love. Get this last part about. Going after we get hurt. Let me out of getting sound. Now you might have slept it by. But I'm down to strength and hard work. With all my massive work. Best it, but I wish we'd love. I'm the cover of violence. Alcoholic, start to dress. I'm not changing any steps. Fuck you and your battle mess. Who's that you who's going to be down? He's the root of the fucking rock. Who's the music? Don't allow. He's the music right now. But it's cause I don't know how. Did it as it's your intent. And since anyway, my dream. There's only one thing to think. What is going down to think? What you mean? Going back, back, back, back, back, back. Yeah, I have sex with. Sex with world. Banding in the back street. Back street world. Him up a smashing, smashing flow. That's how we expect it, expect it work. Oh yeah, well, oh oh, love. Nicola! Questi, gli ultimi che abbiamo ascoltato erano i Motherline, che è un gruppo dei Castelli, amici di Radio Default. Poi c'erano i Misanthropus. E comunque quest'anno pure, insomma, ci sono stati un bel po' di concerti, diciamo, qualcun altro che ha suonato, i Suaire, gli Hellspite, i Capeal, i Motherline, i Bestial Vomit, gli Os che abbiamo ascoltato per primi, gli Always Wanted War, i Misanthropus, i Twister, Cayman the Animal, e poi ci sono i Mombu. E anche quest'anno insomma ci sono state delle performance, e poi c'è stato un workshop che ha preparato una performance che molto spontaneamente poi si è svolta anche la domenica, e anche insomma quest'anno bella tre giorni anche insomma, bella atmosfera tra, sì, tra la gente lì, insomma, conoscersi. Sì, sì, ma anche proprio a livello musicale veramente potente, perché comunque un bel numero di concerti e comunque piacevole insomma da ascoltare, quindi anche da conoscere. E sempre riguardo a concerti che abbiamo registrato ultimamente, c'è stato il Breakfast all'Ateneo Squat, e noi mandiamo un paio di pezzi dei Led e Bob, che sono anche poi tra gli ideatori insomma dell'Ostia Palusa Festival. Quindi li salutiamo così, ci sentiamo. Un saluto al secchetto. E dai, ciao secche. E ci sentiamo Moschito e Mi hai rotto un piede, che sono quelli che ci piacciono. Sì, anche a noi. Grazie, bello, bello, bello, bello, molto bello. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah ed era il momento della degenza. Wow, sì sì. Noi stiamo facendo questa carrellata di ascolti, però se ci vogliamo anche soffermare su qualcosa di ascoltarla. No, però stava andando alla grandissima innanzitutto, perché pian piano ho preso il sopravvento. Tanti pensieri, tante osservazioni, anche nel, per esempio, nella differenza che ci può essere fra una radio, e ne parlavamo, l'anticipavamo prima, appunto, una radio web e una radio invece che nasce come radio FM essenzialmente. Quindi ci passano 20, 25, 30 anni di differenza fra l'una e l'altra tecnologia nella, così, nell'essere fruibile da tutti, e quindi la possibilità di far nascere esperienze così indipendenti, autonome e comunque al di fuori, diciamo, degli schemi del mainstream, del mercato, delle logiche obbligate. E no, notavo già una differenza, per esempio, nella conduzione. La radio web forse assomiglia molto alle prime radio FM nello stile, comunque nel voler andare a pescare comunque dentro ambiti sempre molto particolari, e allo stesso tempo farlo in maniera molto dilatata anche nel tempo, senza la necessità alle volte di dover comunque scandire i tempi, cioè molto più rilassata tutto sommato, molto più di nicchia. Mi ricorda forse una radio Onda Rossa di tanti tanti tanti tanti anni fa, forse quando ancora nemmeno c'ero io a farla, non so, questa così un pensiero, un'osservazione nell'ascoltarci reciprocamente. Questa è una bella spinta, anche perché l'impressione invece di, cioè quella di stare sul web e aprire anche questo spazio nel web, dove appunto no, c'è questa marea di informazioni, anche per ritornare al caos di cui parlavamo proprio all'inizio. E comunque aprire uno spazio nel web, farlo con una radio, è anche, no, usci fuori da tutta la mentalità comunque del social network, del canale per ascoltare musica piuttosto che scaricarla, o comunque insomma magari accendere la radio, quella dovrebbe essere, cioè, quella che a noi piace, insomma, la spinta che a noi piace dare, pure avere noi che la facciamo. E però c'è la cosa che comunque sia, l'FM per noi c'ha sempre una potenza che non cioè totalmente diversa da quella di internet, e è comunque un canale che ci piace pure di più, canale più materiale, quindi diverso, poi una frequenza fino a un po' di tempo fa ancora si poteva occupare, no? Poi c'è stata tutta pure la vendita, a me viene in mente pure tutta la telefonia mobile, quante frequenze sono state comunque vendute, date a questo tipo di aziende qua, e comunque adesso c'è il web che ti permette di fare una radio con un PC e una scheda audio, poi sì, con le diverse attrezzature che comunque servono, che però comunque c'ha secondo me i suoi limiti rispetto all'FM, insomma, sempre proprio per discorso pure dello sì, quello è vero, anche ma... se però, sì, d'altra parte magari vi spinge anche a ricercare, non so, avete la possibilità, insomma, di andare fuori, la sfruttate al massimo poi. Certo, infatti pure il discorso di fare un archivio musicale e metterlo comunque a disposizione pure di tutti, e in quello ritrovi pure magari nel web quella cosa lì, che una, diciamo, motivazione, pure sì, forse una singolarità, cioè comunque non, anche nell'ambito delle web radio che sono molteplici, non è facile trovare una radio appunto che va in giro in realtà per le strade, per i posti occupati eccetera, a reperire materiali audio e renderli disponibili. Comunque è un lavoro di archiviazione di cose che per lo più vanno perdute altrimenti, perché molte volte è così, e tra l'altro con una qualità mi sembra veramente alta, sia tecnica dei gruppi che hanno suonato per esempio all'Ostapalooza piuttosto che nelle altre manifestazioni che avete registrato, ma comunque insomma secondo me è un periodo di fermento molto alto in cui anche tutto sommato i gruppi che suonano sono tecnicamente molto validi rispetto a quelli di un po' di anni fa, non so, mi sembra periodo florido, sì, questo, florido, molto diversificato pure nei generi, che sarebbe un peccato perdere appunto magari chi crea appunto un archivio audio per altro pubblico. Che cosa? Sì, appunto quello che cerchiamo noi di fare come radio è proprio cercare di, in una società dove tutto va veloce, tutto va perso, cercare di mantenere poi quello che si fa e quello che si vive, insomma, con queste registrazioni, con questo archivio noi cerchiamo di lasciare un segno, qualcosa che poi sia qualcosa di concreto, che magari rimanga, poi non sia soltanto un evento, una serata che poi passa e va, come poi è tutto quello che accade nella società attuale, ma invece ecco, si cerca proprio di mantenerla e di mantenerla viva e di conservarla, l'evento, la cosa, la musica, ma anche l'opinione o la discussione o qualsiasi cosa, insomma. Va bene, sì, abbiamo tutti da imparare, sì, un po', sì, questo la sostanza, gli uni dagli altri, senz'altro, insomma, senza alcuna condizione, diciamo, di priorità o, certo, perché appunto voglia di scambiare. Sì, voglia di scambiare orizzontalmente e mettere a costruzione, diciamo, quello che si impara. E allora adesso ci possiamo ascoltare qualcosa registrato invece in radio? Wow. Proprio in radio, nella saletta dove comunque di solito ci sono le trasmissioni o dove c'è il computer che sta sempre on air, e ci ascoltiamo lo Spinoso da una trasmissione che è Underbeat del martedì sera, un live Radio Default. Bene. Questa si chiama Altissimi Intenti. Sarebbe più facile se non ti pensassi mai. Del resto è più semplice, chissà come farai. Ricordi bellissimi che non ricordo più. che più. Parole di plastica che bruciano e puzzano. Thank you. farei. Come fai tu? Ecco, io penso che la serata si possa concludere così. Ah, vabbè, vi do la sigla finale, però dai. Sì, no, no, prima della sigla finale, no, volevamo mandare un piccolo estratto di tutte le varie voci di Radio Default che ci hanno accompagnato per questi un anno e mezzo, insomma. Intanto qui sentiamo le voci dalla strada, sì, perché sì, vabbè, comunque voci, voci su tutto voci. Sempre dalla strada. Insomma, questo è un piccolo omaggio a tutti i compagni, gli amici, le amiche, gli animatori e tutti quelli che hanno reso possibile questo progetto per questi anni. Ecco, e adesso a che anno siamo arrivati? Diciamo che secondo è finito, sì, no, il primo è finito, solo che il primo anno è stato più un anno di preparazione. Abbiamo ristrutturato la sede, ci siamo organizzati e tutto quanto. Noi adesso è più o meno un anno e mezzo che siamo Neir, sì, perché abbiamo iniziato a gennaio del 2013, quindi adesso siamo, è un anno e mezzo abbondante, sì, solo che ci stiamo lavorando sopra, sono più di 2 anni, insomma, tra quando nasce il progetto e quando poi iniziamo a lavorare proprio concretamente. Abbiamo ristrutturato il posto, ci siamo organizzati e tutto quanto, sono cambiate tante cose, siamo cambiati tanto anche noi, però diciamo che per ora andiamo avanti e cerchiamo va di... Va tutto bene per ora, direi. Sì, diciamo di sì, ma tra tante difficoltà, però vabbè, adesso non è questo il momento di... Però l'importante è che ognuno ci vogliamo bene, suoi, insomma. Dai. Volevo pintare con numero 2. Dunque, avete settato la testina a regola d'arte con una dima? Avete controllato l'antiskating? Avete regolato il braccio con una bilancina di precisione, preferibilmente della Shure? Bene, allora accendete l'amplificatore, che spero sia un Marantz color oro. Alzate lentamente la teca del giradischi. Impugnate delicatamente con indice e pollice il braccio all'estremità. Effettuate un leggero movimento verso sinistra. Il piatto inizierà a roteare. Lo stroboscopio si illuminerà come una pista d'atterraggio di notte. Fissate per qualche istante la puntina, guardatela scintillare come il più raro dei diamanti. Lasciatela planare dolcemente sul disco e let the record go. Buonasera, volevo iniziare subito con Cancelliera linea C. Allora qua mi chiedono un altro aneddoto, che vi posso raccontare? Se qualcuno una volta sono andato a Frascati, Barbara. Uno fa a mettere in relazione, uno fa a far conoscere quella che è la mobilitazione che appunto gli attivisti in Argentina stanno portando avanti contro la Monsanto, che è una delle multinazionali più forti. Default, il account Skype radio.default tramite i quali potete intervenire in diretta e fare domande, mandare imprecazioni e robe simili, che però oggi sono staccati. Tema di audio, ma in una radio può capitare. Allora, il film di cui tratteremo Radio Default, Alester Blavatsky, Live Set. E allora, dal nostro archivio delle chicche abbiamo tirato fuori un pezzo che fu eseguito in diretta alla Rai TV, E allora questa sì è proprio del 1980 in Val di Susa, dove l'esercito presidia, tra l'altro ci sono militari addirittura arrivati da uno scenario di guerra, dallo scenario afghano, sono quei militari che adesso stanno presidiando il non cantiere di Piemonte. Vivere e fare musica in uno sport, insomma, influisce sul modo di fare musica, sulle tematiche, sui testi, ma anche sull'interazione delle persone che magari no, si sono a cantare piuttosto che altre cose. Adesso invece avevo pensato di mettere un pezzettino Ho perso. Vabbè, il programma che è famoso, no? Quindi andare a complicare la vita, non si è capito, e proprio molto poco. E niente, allora, prima stavo dicendo qualcosa su, insomma, uno delle anime ribelli, chiamiamole così, del PD, che dice sì al cacio e pepe su Renzi Vegano. Sulla giustizia e sul personale amministrativo, in realtà quindi cerca di utilizzare, come dicevo, lavoratori come noi, già dice, come dicevo prima, già espulsi comunque dal mondo del lavoro, gli inserisce dentro questi uffici, personale manca perché l'ultimo anno in cui furono fatti i concorsi fu il 96. Su queste esse l'interrogano. Poi, analizzando con facilità le sue opinioni, in quanto opinioni di uomo privo di ragione nel pensiero, col discorso le riuniscono insieme e le confrontano poi tra loro. E così quindi dimostrano che esse, in un medesimo tempo, intorno agli stessi argomenti, in relazione alle cose medesime, secondo i medesimi punti di vista, sono tutte in opposizione tra di loro. E queste erano un po' di voci dalle trasmissioni, da alcune improvvisazioni fatte in radio. Insomma, siamo stati investiti in questa puntata di 25 O'Clock dall'energia di Radio Default, e niente, io mi auguro veramente che rincontreremo le nostre strade presto, così da condividere ancora. Sì, volevo magari ricordare l'indirizzo web su... Allora, innanzitutto vorrei così a cappella, a chiusura della trasmissione, ricordare che molti, se non tutti, penso i materiali audio che avete ascoltato a cura di Radio Default sono appunto disponibili direttamente sul sito, che è www.radiodefault.it. cliccando play poi si ascolta direttamente la radio, e comunque c'è poi sul sito stesso diciamo c'è modo di arrivare all'archivio di tutte le trasmissioni, ben in evidenza le ultime, queste qua che abbiamo ascoltato di Ostiapalusa, e insomma le ultime che avete fatto. Va bene, quindi questa era 25 O'Clock, questa era Radio Onda Rossa insieme a Radio Default. Sono, che ore è? Lune 07. E questa è anche Radio Default stasera. E questa è Radio Default. Allora approfittiamo per quello per salutare tutti i compagni e le compagne detenute. Lo facciamo grazie anche a voi. Come vai? Quelle che hanno la possibilità di ascoltarci in diretta, almeno nelle carceri romane, che succede? Salutiamo tutti i compagni e le compagne detenute, salutiamo anche Gianluca e Adriano, che sono due compagni dei Castelli che si trovano nelle sezioni di alta sicurezza 2 di Ferrara e Alessandria. E quindi e comunque tutti e tutte coloro che sono costretti a condizioni limitate a libertà personale, salutiamo tutti e tutti coloro che si ritrovano costretti nelle carceri romane ed italiane e di tutto il mondo, ovviamente. Va bene, e quindi adesso ci mandiamo la sigla, ringraziamo bella, ringraziamo voi, bella, grazie a voi, ci sentiamo presto e ci sentiamo presto e continua la collaborazione, dai. All my mind, would you buy my fare